già vinta la causa. Cosa senta? In quella toccadea. Perfidi! Io voglio di tal modo punirvi. A piacer mio la sentenza sarà. Ma se i pagasse la vecchia pretendente, pagarla in quale maniera? E poi ve Antonio, che è un incognito figlio di Cusa, di dare una nipote in matrimonio. Coltivando l'orgoglio di questo mentecatto, tutto ciò vanno a giro. Il colpo è fatto.